Cosa c'hai? Cosa c'hai? Buonasera. Chi non vuole si risente? Chi non vuole si risente? Sei tu che non ti sei fatto sentire. Chi è? A me in realtà dice quello che mi trovo male, ti avete un c'è commozione. Ehi. Allora, buonasera che si dice. Canale di Morti, attenzione. Canale di Morti, Sassari. Veramente io sono ancora vivo, Così tu. Anche Gianni che è vivo, poi gli altri se sono morti non lo so. Ciao Eugenio, buonasera. Ciao, buonasera. Chi era l'altro, non si capiva niente. Scarpa era l'altro. Ma dice che c'erano quelli di Come che stavano con Carlo Alessandro Giugli, è vero? C'erano, non ho capito. Che c'erano quelli di Come che stavano compando la 131. Ma non lo so, io non ero a Porto Torres, se sto rientrando. Non lo so. Ah? No, perché dice che si stavano quasi azzuffando, che loro gli abitanti che dovevano tornare a Porto Torres si stavano incazzati. Adesso poi si stralciati di una carriera, hanno messo quattro ruote con le orecchie per bloccare la strada. Ma lei hai visto il filmato su Facebook, quello è un filmato vecchio. Ah, lo sì, quello è un filmato vecchissimo. Ma c'è scritto a Porto Torres, no? Sì, è successo a Porto Torres, ma ha filmato vecchio. Ah, e allora mi devo aggiornare, io non l'avevo vista ancora. Tartanino. Eia, sono qua. E cosa prendi? Cosa ti conviene? Ha detto cosa che non mi capiva. Ciao Tartanino. Allora già mi capisci già. Cosa fai lì? Tutto un buio, ti capisco. E allora forse il microfono è troppo vicino, cioè, là. Non è il microfono, Natale, io ti sentivo bene. Tutti in vicinanza, strano. Boh, non lo so. Mi è rimasto abbastanza. E sto scendo a basso. Ma cosa fa? Adesso non mi anche la funzione da qui. E dove è andato oggi? Dove sei andato? In campeggio? Era a Calagonone, non a Calagonone, a Calicio, sono gli atti di Chiumi. E già me la zona quella. Un sacco di gente. Adesso c'è crisi, io e mamma. Ma cos'era, organizzato oppure di quel militare? Ah, no, capisco. Hai messo in camicione. Ah, e quando ci sei stato, ti dici io? Ah, tre giorni, da tutto. E già va bene, era stato per staccare la spina. Già mi ha fatto, sono più costruito. E niente di che, era. Le solite cose, oggi. Qua, per questo è un po' morta, perché la gente sta entrando anche poco, con la storia del caldo, io, guarda, a volte non ho proprio voglia, col caldo che c'è, di stare in casa, quando esco, non è che ci metto molto, faccio la telefonata e se mi scendi, mirta. E no, se la sera dopo che, diciamo, il sole cala un po', vale il vado dalle parti del mare, al ghiero, eccetera, eccetera, si sta bene, dai. Non è che... non sempre, però, poi devi fare commissioni, devi fare quello, devi fare l'altro, e quando vai in prendere città marcata si sta bene, infatti sono tutti... E gli altri di trucco, perché c'è il condizionatore, risparmiano, non consumano energia e si rinfrescano lo stesso. Non l'ho sentita assolutamente. Boh, sarà dalla fidanzata. E anche lui se ne stanno andando al mare sicuramente con la mamma. Ciao Luigi, ci sentiamo, dai, buona serata. Alleluia. Poi rimane già questo gruppo vera. Vera per te. Tutta la mia moglie, Will, tutta la mia moglie, la Water Paradise. Mi sono francese, e non l'ho visto su Facebook, così come in carte, e lui è matto qui. Io ho capito, no, non ho visto nulla, perché, diciamo così, non sono sempre al computer, capito? Io devo capitare, no? Ho visto che buongiorno mi metti almeno. Ma dopo magari c'è cosa da fare, capito? Mi viene male a rimanere al computer. Vediamo qua. Un casotto è. Cos'hai alzato la radio? Cosa? Cos'hai poco fa? Alzato la radio? No, non ho alzato nulla, sono sempre così. Ma va più forti, è più compressa adesso. No, non ho alzato nulla, no. Sembra più forte. E guarda, sapendo si stanno la sera, non lo so, io sto entrando poco, perché ho sempre da fare, già lo sai com'è, no? Sempre il gore della mazzanata, stasera sei dovuto andare a comprare i piedi di pollo, ma non a Giugana, mi ripiglio domani nei gusti via. Ho scoperto un posto dove vendono la roba per i cani a basso prezzo. C'è uno di quei trasportini tipo il tuo, un po' più piccolino, no? Per custo lo voglio comprare, non sai quanto costa? 66 euro. E dov'è? Ma Davide, dov'è? Dove si trova? Che senso? Oh, già stai scendo, tu è che mi si era incasinato il canale a me, dal microfono, capito? Ah, c'è un zao, è vero. Cosa stavo dicendo, dove si trova questo negozio? A Predaneda, Però vendono anche medicinali, roba proprio per gli animali, ce l'ha così a dottor Fracassi, perché sono andato a fare sedizzare la gatta dell'amica di mia moglie. E praticamente ho visto tutto quello che c'è, sanno tutto, lo so che vuol dire tutto, mangine, tutto quanto va. Ma Predaneda dove? Predaneda è mana, dove più o meno? C'è qualche riferimento che si può utilizzare per trovare? Vicino a Franco Ennas, prima di Franco Ennas. Ah, ho capito. Ma sempre in quell'interno lì, in quell'interno, c'entra l'interno? È lì all'interno e c'hanno di tutto. Perché prima io lo sapevo che c'era quel negozio, però era da un'altra parte. L'hanno aperto lì a Predaneda, ma vanno di tutto. Pure farmaci, li paghi la metà di quanto li paghi in farmacia. E mai a farmacia me li scarico. Mi scarico gli scontri. Vabbè, questa qui, invece che pagarlo 30, l'ha pagato 13, mi sembra, il farmaco. Perché in farmacia guidava 30. E buona sapersi, buona sapersi. Parlo di tutto, hanno tutto quanto, anche i guinzali, collare, tutta questa roba qua. E pettorine, tutto, vani, tutto. Allora come di tutto? Puro mangime, tutto vendi. No, ma mangime è nata lì. Quel sacco che ho preso l'ho dovuto regalare perché non stava. Era quello che mi stava facendo la diarrea. L'ho preso il mangime buono, quello della personal trainer, quello che davo sempre, e diarrea non era più. Vuol dire che era proprio il mangime che non accettava. Vabbè. Ma c'era tutti, qual era? Quello a pallini? Era quello piccolino che torcici. Veglia. Oh, a diarrea li stava facendo. Aspetta. Allora vuol dire che non è indicato per lui. Buonasera a tutti. Ciao Marco. Che no, diciamo che quel sacco l'ho regalato a un amico che c'ha due cani, se lo sbranano, cazzo, se ne mangiano anche un bel e non gli fa niente. E lui è allergico a certi tipi di pasti, capito? Non puoi darvi tutto, puoi darvi solo mangimi anche allergici e tutta questa roba qua. È un bel delicato di stomaco e di intestino. Eia. Vabbè dai, meglio saperlo e toglierlo di mezzo. E bisogna trovare il cibo adatto per il cane, che sia adatto al suo intestino, insomma, a tutto il cane. Ciao Natali, riprendi. È morto. Facciamo qualcosa. E beh, ormai rimane. Come Gianni? Ho detto ormai. No, non sto più andandomi. Quando c'era caldo non siamo andati che c'era il caldo. Adesso c'è fresco, c'è il vento, sicuramente c'è maestrale ed è mosso il mare. Ehi, che hai tu? Poi va lì, dai, buonasera. Riuscitato, sì. ragione. È quello che stavo dicendo io. Sembrava in chiesa, sembrati. Dove c'è Bibbia? Ecco. Infatti. E adesso me ne approfitto a accenderli un po', perché sono un po' che sono fermi. Da parecchio. Ogni tanto hanno bisogno di scaldare. Ecco. Adesso ci chiama più giù qui. Aspetta, che abbassa. Non fischi lo stesso, aspetta. Non fa, diacelo quando ho finito di parlare con voi, che se no fischiano, se sono tutti attaccati, fanno mettono le radiofrequenze. Vabbè, comunque, qua stanno tutto bene, se no. Sì, sempre due gatti, se ci sono pure, sono giornate proprio buie. E vabbè, anch'io d'altronde non mi sto dedicando più di tanto. Oggi giusto ho sentito voi e sono entrato. Natalino? E un attimo che sto facendo cose. No, manco io vado, dico la verità, troppo caldo, c'è cioè, non entrare via le buglie. Quello è quando d'inverno che piove, che te ne stai al calduccio. E va bene così, ma quando c'è caldo te ne esci. Io adesso aspetto un po' che cessi il sole, poi prendo e me ne esco, me ne vado a fare un video. Ma ci sto in casa, ieri ho preso una moglie, una volta fa, c'è roba di giù che ho fatto. Eia, no, io invece sto rimanendo troppo a casa, praticamente non esco mai, se non per piccole commissioni brevi. Sto diventando un po' topolaio. Questa moto ancora non l'abbiamo messa in funzione. Me ne stavo anche passando la voglia, guarda. Come mai non la messa in funzione ancora? Cazzo, dove è stato? Se va proprio estate che non andate in vero. Guarda, ho portato solo la batteria per caricarla. O è morto il caricabatterie o è interrotta la. Ho interrotto la batteria, non vedo carica, nulla. Adesso la batteria ce l'avevo scarica in corridoio, è sparita, non so dove sia. È scomparsa la batteria in casa, perché c'era la sigla giusta della batteria, no? Perché se la prendo uguale, era della Yuasa. Sparita la batteria in casa, Non lo so, ci saranno i fantasmi qua, non so cosa pensare. Poi una volta messa la batteria ci vuole l'assicurazione, che è il grosso, puoi fare subito la revisione e poi ci sono due bollette tratti da pagare. Ahia, vedi via, sono spesa, se non la usi scusa. E l'idea c'era, però caspita, sta batteria speravo di farmela ricaricare da anche da qualcuno, tipo da Ugo, quello che mi riparava le moto, e vedere se è interrotta la voglio uguale, però uguale o niente. Dopodiché se vedremo se è assicurata, dai, cioè se cambio la batteria ovviamente la mettiamo in moto, però mi è sparita la batteria, adesso come faccio a risalire alla sigla? Ho detto che ci sono i fantasmi qua, è una cosa incredibile. Ma perché è uguale, Marco? Vai dai cinesi, da Bricucina, lì ci sono le batterie per le moto, costa una cazzata, ti compri una di quelle e via. Se poi magari la devi vendere, cose, già di nafta, va bene lo stesso. Sì, ma non fa nemmeno venderla, perché secondo me c'è da rifare la trasmissione, cioè la cinghia, a me credo, poi i rulli, la campana non so che condizioni sia, insomma si sente che è più lenta, capito? C'è la trasmissione da controllare lì, e quindi se la vendi la svendi, perché c'è pure da fare quella roba lì, capito? Oh, a me andava bene, per città andava più che bene. Vabbè, vedi tu Marco, per parlare di così ferma è meglio che te la vedi, ma se non hai intento di prendere te la metti al posto tu. Sì, adesso vediamo, dai. Sono io che sto anche tergiversando, però. perché guarda, se vai in via l'Italia, tutta via l'Italia è diventato uno scandalo, non ti puoi fermare un attimo, ci hanno messo questa pista ciclabile per far passare un cretino in bicicletta ogni tanto, sono aumentati i venditori lì dei negozi, niente, l'hanno fatta di prepotenza, come se fosse una cosa irrinunciabile. E via l'Italia è diventato un caos. Anche nelle vie laterali, si doveva parcheggiare nelle viuzze laterali, non ne trovi, perché ormai chi si metteva lì in via l'Italia, si mette lì tutti i negozianti, i medici del policlinico, come si chiama? E di quello che c'è lì, dai. Io ho capito. E infatti il sindaco è rimasto solo giù. Ehi, come un babbeo l'hanno lasciato, belli sta. Ha fatto cagate, guarda, Garau era forse uno dei pochi sindaci che è andato bene. Garau andava bene, peccato che poi si è andato in provincia, ma quando era sindaco ha fatto le cose per bene, secondo me. Ehi. Guarda, capace pure che il sindaco che magari un giorno succederà a questo, magari cancellerà le strisce dalle piste ciclabili e rimette parcheggi, e che è diventato un caos, non puoi andare, non ti puoi fermare in via l'Italia. E non ne trovi, te l'ho detto, non è vero, mia Muroni, tutte le vie laterali, non ne trovi, puoi fare giro 10-20 volte, una volta l'ho fatto io 10 volte, non ce n'era posto, non ce n'era. E quindi rovinata via l'Italia, tutta, tutta. E lo so, perché quando io andavo a farmi delle ricariche in arteria all'ospedale, andavo in moto, entravo dentro il pronto soccorso e la parcheggiavo dentro il pronto soccorso, non c'era posto, ma non farmi moto, figurati. Parcheggiamo all'interno della professora Conti, c'è il parcheggio per la moto, parcheggiamo lì e via, e andavo, in 5 minuti facevo tutto. Se andavo in macchina non ce l'avrei fatto, ho proprio pagato il parcheggio a pagamento, per questo ora che mi balancato stare a pagare ogni volta il parcheggio, dopo che paghi il bollo, che paghi questo, paghi l'altro, tocca anche pagare il parcheggio. Se non è per fare a me, ok, ma se trovi il parcheggio a libero, diciamo, c'è anche lì. Sì, anche perché da una parte c'è Sirio, dall'altra parte la ciclabile, poi ho visto che qualcuno si mette sulla ciclabile in sosta ogni tanto, ma di solito ci sono i vigili, appena te la vedono te la fischiano, se la vedono vuota, no, senza di te te la fischiano, per carità, guarda, e vabbè. Lo stesso in quella via salendo per andare in via Duca degli Abruzzi, in più lì hanno messo addirittura il cordolo, e quindi c'è una corsia per le macchine stretta, abbastanza stretta, e poi il cordolo e poi la pista ciclabile anche lì. Ma... Ehi, a parte quello, il Pantamona ne vogliamo parlare, che non c'è più un parcheggio per parcheggiarti per andare al mare, che stanno facendo scappare anche i turisti, quei pochi che si fermavano prima alla rotonda con i pullman, non so se tu ti ricordi, adesso non si vede più nessuno, perché? Perché non ci sono parcheggi, hanno fatto queste passerelle di cacchio, per essere gentili. A posto delle passerelle, a posto dei parcheggi ci sono queste cavole passerelle, il legno, e cavo, ma da quando comincia la specie, come facevano prima, e c'era niente, buonanotte, cosa stai a fare punti, questo e quell'altro, ma che cavolo fai? Ma tu l'hai visto il quinto pettine, cosa hanno fatto? Hanno riempito di queste piccole corsie fatte di bambù, non ho capito a chi serva, i parcheggi sono drasticamente ridotti, ma drasticamente, guarda, se non ci sei andato vai e vedi che schifo. No, ci sono andato, è per quello che te lo sto dicendo, perché ci sono andato, io ho parcheggiato a un rischio empirico dove c'era entrata, non c'era altro parcheggio, lui ha detto dovevamo andare, quindi abbiamo parcheggiato lì, però la seconda volta sono andato tra il quinto e il sesto pettine, e lì sulla strada c'è una specie di spiazzo dove tutti mettono la macchina, che è tipo un parcheggio, là, è uno spiazzo abbastanza vasto, e ci mettono tutti la macchina, e poi passo in mezzo alla pietra tra il quinto e il sesto, e si sta da Dio perché c'è pochissima gente, e diciamo si sta bene, quando non è sporca la spiaggia. via. E poi adesso hanno detto che multeranno le macchine che sono al bordo strada, no, tra la strada e la pinetta. Proprio stanno facendo di tutto per far fuggire i turisti. Io non so che atteggiamento, questo è il comune di Sorso però, perché mi pare quella è giurisdizione di Sorso. Fanno schifo, guarda, fanno schifo, per guadagnarci due soldi delle multe fanno scappare tutti. Cosa vuoi ti dica? Valerio? Valerio, mi senti? Sì. Però trovare parcheggi adesso è un casino, perché hanno allargato dove c'è il parcheggio delle macchine, hanno fatto le passerelle in così in legno che vanno sino alla spiaggia, quindi tu la macchina la puoi parcheggiare in pochissimi parcheggi, ci sono i parcheggi contatti e la gente la mette all'entrata dove c'è il viale per arrivare al quinto, la mettono lì e però lì c'è il divieto di sosta e di fermata addirittura. Il pericolo di chi la mette, perché mi possono mandare il carattere per la macchina con tutto lì, con ombrellone tutto quanto, non ti trovi più la macchina, immagina di tutto da Platanona, arrivare a Sassari eccetera eccetera, è un casino. Stiamo peggiorando in tutto, perché invece di accogliere il turista lo stiamo facendo scappare. Prima la rotonda arrivavano in pullman pieni di turisti, io me lo ricordo, adesso la rotonda è tutto un cantiere, questo muretto che era crollato, perché non l'hanno fatto d'inverno? Quando la stagione balneare è già iniziata, ci pensano a fare il cantiere. E allora? E se no come facevano a creare disagi alla gente? Stiamo facendo tutto adesso, o non erano arrivati i soldi, che adesso? Ma lì c'era scappato il moto, mi pare, però... Dove già? Non ho capito bene dove. In quel momento che era crollato la rotonda, ti ricordi? Morto no, ma ha lasciato segni. Pare che abbia una parziale invalidità il ragazzo. Voci di corridoio, eh. E quindi bisogna vedere quando e se lo risarciranno. Perché il comune può dire, soldi non abbiamo, andate in pace, capito? Roba da matti, roba da matti. Comunque anche a Sorso bisognerebbe dire al sindaco, ma lei cos'ha in quel cervello bacato? Che restringe tutto, vieta la sosta a bordo strada, capito? Sì, sì, è così, è un casino. Ma si può andare a mare, Noi quando dobbiamo andare tra amici e cose del genere cerchiamo sempre di usare una macchina proprio per evitare di trovare parcheggi in più eccetera eccetera, perché tanto non è truffa. Ecco, una macchina ha sempre il rischio di pericolo perché i parcheggi non ci sono, si è costretto a metterli in punti dove non si può mettere, ecco. Poi allo scoglio lungo, no, le macchine parcheggiavano tutte a bordo mare, no? Lì dove c'erano tutti i parcheggi hanno fatto la pista ciclabile e abbiamo perso un'enorme quantità di parcheggi, tant'è che l'altra volta ci siamo dovuti azzuffare per trovare un parcheggio, lo sai, ho aspettato quasi un'ora per trovare un parcheggio. Ma io non ho capito queste piste ciclabili, cioè le fanno a Roma, a Milano posso capire, una grande città, vie larghe. Ma cosa vuoi fare qua, poi a Porto Torres, per vedere un pirla che passa in bici, come ho sempre detto? Ma diciamo che la cultura dei posti di mare c'è di più che a Sassari, ma a Sassari cosa cavolo ci fanno? Nei posti di mare tipo Alghero, tipo Porto Torres, la usano di più la bicicletta, ma a Sassari proprio, ne passa una ogni volta di un'impappa. Confermi, amici, sì, ma infatti tu pensa se dovesse vedere qualche sindaco che è contrario alle piste ciclabili, il casino di nuovo che dovrà subire Sassari per trasformare di nuovo come la prima. E infatti, hanno mezzo fatto fare dei negozi perché la gente non si fermava più perché ha tutto cantiere, i negozi hanno sofferto, i negozianti erano incazzati neri. Insomma, è stato un cantiere per tanto tempo, non esiste una cosa del genere. Per poi che cosa? Forse è stata una cosa che cui ti dava beneficio, ma fa solo un casino e basta. Sì, sì, io ti sento. Ti sento anche bene, sei bello chiaro. Ma Natalino, ma stai facendo roba, Natalino? Ehi, c'è il programma della... come si chiama? La scheda di rete non funziona bene. e quindi mi sgancia la connessione. Ogni casino. Ma quel computer, insomma, sta cominciando a dare problemi, dai. E i problemi non ho più niente. L'ho disinstallato e l'ho installato. Capito? Sì, ja. Provo a reinstallare i driver della scheda dirette. Adesso non mi ricordo. Ah, la scheda dirette però. O il modem, stai dicendo. La scheda dirette. Già fatto tutto quello che hai detto, infatti adesso funziona. Sì, eia. Beh, vabbè, io quello non l'ho fatto, magari ho installato altri driver, ma quello no. Caro Gianni, anche te l'ho detto, a Sassari c'è quella via dove noi abbiamo il commercialista, che c'è un negozio di elementari. Tu scendi nella via del museo, no? Fronte museo, c'è quella via che scende. Poi a sinistra c'è una via che sale, prima di arrivare in Viale Dante, ben prima. Non mi ricordo il nome, non mi ricordo se è via... no, non è Gianfarino. Oh, può essere. Può essere, c'è anche via Gianfarino. E... ma c'è anche questo cordolo in cemento che se non stai attento ti spacchi la ruota. Allora sul giornale è uscito che volevano toglierlo, almeno il cordolo. E poi te l'ho detto, come ragione, ma mi scappa il nome, che i ciclisti non li vedo mai sulla pista ciclabile, mi rivedo sempre davanti in mezzo strada, capito? Bisognerebbe mettere la multa se non usano la pista ciclabile. Sì, multa, cioè dire, nel caso ci sia la pista ciclabile dovete adoperare quella, ciò che, no, che non dire così, se non riempiono tutta Sassari di piste ciclabili, tutta Sassari riempiono, e così diventiamo tutti ciclisti come fanno in Cina, li hai visti, almeno 30-40 anni fa che erano tutti in bici. Prima c'è anche il taxi in bicicletta, c'è la bicicletta, c'è tipo che pedala con le... se giù dietro si della gente e vi porta. Il rickshaw, quello è carino, ti siedi dietro e ti porta. E ti porta il tipo. Vedi, è caratteristico quello. Ti sei andata, ce ne sono, sai? Ma lì o è tutto pianeggiante, se no devono mettere le marce ridotte salendo. Ma si deve mettere in piedi. Oh, oh, vista, mamma mia, sì, forse c'è solo un giorno pianeggianti, e se no tipo gli viene un infarto a tirare. O a frenare in discesa, mi. E deve piantare i piedi, se no, via velocità. Che si è parato qui. Ma prima questa andata lontana non c'era mica male a Sassari, non so se tu l'hai mai visto, ma non penso, io l'ho visto. C'erano i taxi con i cavalli. No, i taxi no. Però mi ricordo negli anni 70 solo che veniva un signore dai paesi, veniva col barroccio, cioè la, tipo la carrozza tirata dal cavallo. Io, noi la chiamavano barroccio, mi pare, così si chiama. E veniva dal paese con quello, capito? Non aveva macchina. E lo vedevamo passare nel biciclo quando lo vedevamo. Però, caspita, non li ho mai conosciuti io, i taxi o comunque carrozzine portate dai cavalli, no, no, no. Io sì, già li ho visti, me li ricordo ancora. Poi ho conosciuto anche le moto carrozzelle, quelle verdi che erano taxi. Le moto carrozzelle, ma tipo l'ape? Le ape erano, solo che erano chiuse, no, facevano il taxi. Caspita, no, no, non me lo ricordo. Invece ti volevo chiedere una cosa già. Tu che sicuramente, non so se frequentavi tu in Piazza Castello da giovane. Io c'avevo la greca sotto il Marco di Sardegna. Allora, nei primi anni 70, ti ricordi quella specie di totem che c'era dal parte bassa di Piazza Castello? Era una specie di... non cabina, perché non era chiusa, era una specie di torretta, no? Con la scritta polizia e lampeggiante giallo sopra, e praticamente serviva, c'era un citofono, serviva per chiamare la polizia, non te lo ricordi? A voglia, me lo ricordo, sì, facevano un bel scherzo con la parte. infatti poi avevamo pensato a questo tipo che chiamava sempre la polizia per divertirsi, era con la civetta, l'avevamo pizzicato, poi questo tipo io lo conoscevo, dice che l'hanno fatto marciare in caserma, siamo messi tutti in fila, i poliziotti l'hanno fatto marciare, ogni volta che marciava lo prendevano tutti a calci del sedere, ma a calci furti però, poi l'hanno portato nel cesso, gli hanno messo la testa e l'hanno detto di cantare, non sono degno di te. Tipico. Guarda, io quello non so nemmeno come si chiamasse, ma era una cosa particolare, proprio me lo ricordo, no? Poi ero piccolo, cioè, per me era anche alto, no? Proprio questa torretta, poi aveva una specie di cappellotto più largo, no? Dove c'era scritto polizia, e poi mi pare un lampeggiante, credo, giallo sopra. Tu premevi questa leva e parlavi lì nella feritoia, per chiamare la polizia. Guarda, se avessi una foto di quello per farlo vedere a mamma, perché lei non se lo ricorda. No, aspetta, io me lo ricordo, quella lì era la colonnina, colonnina di intervento, una cosa del genere si chiama. Eia, per chiamare direttamente la polizia, dai, facevi in fretta senza comporre numero, no? Premevi o tiravi la leva e parlavi. E sicuramente Scacini l'avranno fatto più di uno, e già lo credo, è bello che quello a calci nel sedere l'hanno pigliato. E beh, quando è troppo, dai. No, il militare ha fatto, sì, allora marcia, e allora ci siamo messi tutti in fila, ogni volta che passava, lo prendeva a calci del culo. Dopo la notte se l'hanno ficcata la testa e dai, sono canta, non sono degno di te. E questo in che anno di grazia più o meno? Metà anni 70 oppure? Guarda, sì, più o meno 75 così, 70-75. Tu forse l'hai sentito ancora, tu ce l'hai mai sentito al Valentino? Sì, quello della Croce Blu, della RZ1. Esatto. L'aveva raccontato al Parco di Corraduta quando ce l'aveva. Ti ricordi? E praticamente l'avevo raccontato lì questo tipo, che l'avevamo pizzicato, che siamo fatti una risata che avevo detto lui. Ah, mi ricordo anche se col VHF all'executive di allora, 500, però sì, tutto a posto. E poi rispondeva a quello, ma guardate che sono io, la pattuglia satellitari, non ho parlato io, cioè, c'è qualcuno che si diverte. Esatto. Vabbè, però, no, io così non l'ho fatto mai. No, non l'ho fatto mai, meglio evitare. L'RZ1, io mi ricordo una volta che lui, ci eravamo visti alla Croce Blu di sera, no, era buio, e non riceveva niente alla volta, o gli ha fatto l'impianto male. Dice, no, non stanno parlando, detto, scusa, c'ho lo scanner io, guarda, il Black Jaguar, te lo senti che stanno parlando? Non so chi. Lui metteva e non diceva niente, è come che l'antenna fosse staccata, mi. O ho fatto male gli attacchi. No, ma funziona. Se non senti nulla non funzionano. Sì, attaccavo anche i punti che c'era la Croce Blu. Eia. Ospitale. No, com'era il mio? Black Jaguar. Bello, MK2. Il primo scanner. Guarda, a me era piaciuto da matti, poi il vetro che era tutto in chiaro, quando mi metto le mani in testa quando ci penso, tutto, telefoni, cordless, tutto. Io la chiamo l'età dell'oro quella. Io il primo chiamato UPTU e costava 1.200.000 lire allora. Eia, il Black Jaguar non me lo ricordo quanto costasse, ma era. Black Jaguar era molto primitivo, aveva pochi canali di memoria, tipo una decina. Molto semplice, mi solo FM riceveva. Forse anche la banda aerea, la M, ma quella non l'ho mai contata. Molto semplice era uno dei primi scanner, le batterie erano fisse dentro, mi pare, forse anche saldate. Però, guarda, con quell'antenna elicoidale riceveva sempre, e riceveva sempre tutto. UHF bassa, UHF normale, UHF. E mi, Claudio ce l'ha, l'ha conosciuto anche lui, il suo non funziona più, non so se si potrà mettere a posto. Poi vabbè, sono arrivati, c'è quello avuto io dopo, tempo dopo, il, come si chiama, l'avevo preso la GBC, ma l'avevano fatto pagare 700.000 lire, in realtà costava 900, non so, tramite qualcuno me l'avevo fatto comprare senza l'IVA, il, la Linco DJX1 portatile, il solito cessino, no, che prende spurie eccetera. Però ho avuto da tavolo, ho avuto un Bearcat, un Uniden Bearcat da tavolo che era una meraviglia già, una meraviglia. Gli attaccavi l'alimentatore suo, il volantino suo, potevi mettere all'esterno se volevi, era piatto, no? Mi ricordo che mi ero memorizzato tutte le frequenze dei cellulari in chiaro, perché erano proprio frequenze predefinite, tutte memorizzate, come telefonavo a uno. Tu! Io lo permetto, quando c'erano i cellulari qui, per telefonare, aspetta che ho scoperto che una che mi hanno fatto stava chiedendo gli incontri per la figlia, perché doveva avere l'esame di maturità, ma una professoressa che ha pensato il fatto che ce l'aveva come insegnante, no? Detto, guarda che me la devi promuovere, no, ti preoccupare che te, ma ci penso io, questo e quell'altro. E io e mia moglie l'abbiamo sentito perché era accesa, dice questa qui, di cazzi, poi l'ha chiamata a nome, quindi niente da dubitare, ma la voce era sempre la sentivamo, figurati. Poi il fatto sta che avevo un beccato questa studia, ma avrebbe capitato anche coppie che dicevano anche cose un po' spinte. Sì, già lo credo. Ogni tanto sentivo qualcuno che chiamava all'epoca l'899 o che numero era, i numeri erotici, solite fesserie, corna, pisticci a sangue, mamma mia. E quello da tavolo, quello Uniden Bearcat, faceva in pare 66-88, no, tipico. 136, 164, 400, 512, poi mi pare 800 e 960 MHz, dalle 800 a 960, quindi prendeva anche cordless a 900 MHz in chiaro, ce l'avevo anch'io in casa, figurati. All'epoca non ci si pensava, si parlava e boh, poi ci vuole ascoltare, buon viaggio. Sì, sì, è vero. Il mio aveva anche le bande laterali, però era un po' grandetto come apparecchio, poi l'avevo messo a caricare, si era sciolto un alimentatore e mi aveva sciolto anche l'apparecchio. Qualche cosa va più corto e meno male non abbia dovuto pure a casa. Lo Jupiter era molto bello, ma lo ricordo. Così come bello l'AOR, quello portatile, che costava 800 euro mi pare, in euro, quindi 1.600.000 lire sarebbero in lire, solo che vabbè, adesso purtroppo digitale, esistono naturalmente ricevitori digitali, ma costano quasi 2.000 euro, poi se c'è la codifica tipo forse mettono la codifica e non li senti nemmeno col digitale, quindi non c'è il tanto, dai. Ma 7.000 era bello, non e non me lo ricordo, non me lo ricordo più le sigle, perché anche hanno fatto nuovi apparati tuttora anche. Però il grosso era di ascolto V e U, non solo i radioamatori, anche i radioamatori in digitale, quindi fra un po' ce la prendiamo in saccoccia. Sì, infatti non servono più a niente, perché se ci lasci di più a radioamatori, per sentire più a me, ti ripeto. Poi cosa ha avuto? Aspetta, quindi le DJX1 portatile, poi il Bearcat, poi ho avuto l'ICOM ICR5, solo FM, FM normale, FM larga per la radio, lo stesso un bel di sei spuri, segnali di fantasma, poi lo Iesu VR500, quello che ho da Transalino, che ha le bande laterali, no, che fa da 01-1003, e poi il mio preferito, l'Uniden Birkat portatile. Solo FM e AM per la banda aerea, solo FM. Sì, con quell'antenna lo stesso tipo di cordiale prende un po' tutto, solo che c'è ben poco da ascoltare, dai. Infatti non c'è più nulla. Non senti manco una manina, niente, sente sempre quella solita tintunella. Anzi, mi pare strano che siano ancora in chiaro quelli là, ma vabbè, forse il loro sistema di ponti era bello efficiente, che magari temono a cambiare il sistema, no, perché all'inizio ci sono sempre casini, non prende. Loro hanno bisogno di radio che dà una certa fiabilità, non è che possono mettere una frequenza che poi magari non gli dà soddisfazione, anche perché mi serve per soccorso qui. Ma comunque, il digitale sta evolvendo tutto, il digitale non tende più nulla. Sì, yeah. Pensa che con Pomponi avevamo fatto un pensiero di pigliarci anche noi i portatili digitali, così almeno non ci sente nessuno. Beh, no, non nessuno, già ci sentono, ma la maggior parte delle persone no. Tu pensavi che prima il chiacchierone te lo ricordi chi era? Come già? I primi, prima i più chiacchieroni chi erano? Ma in che banda vuoi dire? I vigili urbani. Ah, sì, quello sì. Era anche divertente, ogni tanto non si capivano pure. Allora, passava il tempo anche, ma anche loro spariti. Peccato però. Vedevi tutto quello che faceva, la scienza. E una volta non ha sentito, ma si è passato a prendere quella roba là, ma che cosa? E poi scelto, passato si apre. No, e adesso passa, tanto sto passando lì con la via, adesso passa con lo prendo. Comunque il Black Jaguar è stato il primo amore, appunto, e mi è rimasto impresso, dai, poi ero un ragazzino, quindi per me era, all'epoca, caspita, metà anni 80 era, avevo scoperto l'America. Che ne so, sei già visitato, sei tu? Sono le 7:19, ehi. Poi all'epoca comunque in VHF non sentivo quasi nessuno, sentivo solo Raffaele Lumbau, buon'anima, che modulava e boh, non c'erano questi di adesso, insomma di poco tempo fa. Ma il dentista? Come? Il dentista è Lumbau. Dentista? Ma lui era, cos'era? Lui ragioniere, boh. No, perché Lumbau era una famiglia di dentisti. Ma lui non so se fosse geometra, ragioniere, non credo dentista, poverino, che ogni tanto lo sfottevano dei delinquenti e gli facevano Raffaele, sì. Ah, ma perché è morto, quello che aveva modulato la Piazza d'Italia, lo visitò la Piazza d'Italia. Sì, era morto Raffaele Lumbau e era già grandetto all'epoca. Invece fino a qualche anno fa era bello ascoltare in VHF, c'erano i soliti, no? Walter, no, Vittorio, e altre persone, era anche divertente, facevano battute, adesso sempre meno li sento. Non vuoi adesso parlare più di la frequenza, chi lo sa. Io diciamo che prima ero molto più attaccato. C'era serata che non c'ero, già lo sai, come te. Adesso un po' me ne farei, non lo so perché, forse perché ho altre cose da fare più importanti, altri impegni grossi, eccetera, quindi un po' lasciato perdere, ma l'inverno già si riprenderà. Sì, ma poi pensa che io sono quasi sempre a casa, salvo qualche volta, sono lì con sto computer a diventare matto, con lo smartphone a cercare la roba da comprare. Mamma mia, ma molti soldi, cioè, se ne hai molti, dammi un po' a me. No, ma sempre roba piccola, niente di che, niente roba di grossa. Poi più che altro sono cose che mi guardo ma non ne uso. Sono un feticista, mi piacciono i fetici, cioè devo possedere l'oggetto, poi magari non me ne funziona nulla. Ma lo sai che era un discorso, che l'altro giorno ho sentito quel mio amico che hanno sparato al corso, come si chiama, quel locale che c'è a Verba, che l'hanno sparato al braccio, che avevano messo che era ubriaco, che tutti voleva dare tutte le palle, solo lo sai. Oh, ma da poco è successo? E da poco? Lui ha tentato praticamente di dare un calcio e di buttarlo fuori a questo qua, no? Questo cosa ha fatto? Ha preso la pistola, esattamente i soldi, ha preso la pistola, lui ha chiuso la porta, mentre stava chiudendo l'ha sparato al braccio. E poi ha sparato altri due colpi, ha preso la porta e ha preso il corpo. Per fortuna mi ha detto che non era una pistola vera, era una pistola di quelle scacciacani camuffata, capito? Pistola vera, e quindi non ha la pistola per la sede, ce l'avrebbe ammazzato. Sì, già lo credo. Se usi pistola salve con le cartucce di serie hanno pressione bassa, anche se li metti un proiettilino in punta attaccato a colla, insomma, cose già sperimentate, no, da ragazzini. Fa un po' di una fesseria, fa. L'arma vera c'ha pressioni, cioè l'arma vera con i proiettili di serie già, ma calibro che ti ammazza, basta che becchi un punto vitale o che becchi un'arteria ed è fattami. Per fortuna è andata bene, comunque ha dovuto chiudere il locale adesso, tanto che non apre più lì, perché c'è che c'è troppo rischio, quando lui c'è la via la marmola. Valerio? Forse stiamo facendo ping pong. Natalino? Puoi riprendere? Sì, signore. Digli, che pressione ha una calibro 9x21? Quant'era in atmosfera, in bar? Non me lo ricordo se era 1600 o quant'era. Non me lo ricordo. Però ti assicuro che fa il suo dovere. Tu pensa a me, una volta mi è successo un guaio, meno male che già è risolvibile, nell'altra Sanremo mi ero dimenticato di mettere la polvere in una cartuccia, solo con il mesco la palla è partita e mi si è bloccata nella canna, tu figurati con la polvere che ha un boss impotente, ha fatto partire la palla ugualmente, solo con il mesco. Eia, sì sì, lo so, l'innesco sai già una sua bottarella da, certo la polvere è una cosa allucinante, pensa che il calibro, come si chiama, il 357 Magnum, no? Siamo con una canna 6-8 pollici, pare c'ha 3000, o comunque misurati non so come, c'ha 3200 atmosfere di pressione, una bomba. Ehi, trimorese all'interno, infatti molta gente su quelle pistole lì usa le 38 invece delle... E poi cazzo te ne accusi quando sparano le 38 perché fa due righe nel tamburo, perché la 38 è più corta, capito? Fa due righe nel tamburo, com'è? Ah, il cegnetto, ho capito. Se con una 357 spari le 38 se ne accorgono, capito? Perché a sparare le 357, cazzo, sono potentissime. Tu pensa, hanno sparato con una 357 a una serranda di un bar, l'ha fatto un danno. Eia, guarda, la Colt Python a me piaceva molto, poi mi è scesa un po', però è una bella arma, soprattutto cromata, non cromata, inox, come si dice. dal palito. Non troppo lunga magari, anche 4 pollici. Se 6 pollici è un barazzone. Ma quella tanto quanto, no? Calibro 9, potente, ma quella 500 magnum, quelli sono scemi, cioè bisogna essere scemo mi pre. Usare un'arma del genere. E lì in quell'armeria dove vado io ci sono quelli lì che piacciono a te. Tu lo devi vedere. Questo sono uno spettacolo quella 500 magnum. Mi ha fatto vedere le cartucce, roba spaventevole. Eia già, cioè non bastava la 44 magnum, no, che era considerata la cartuccia negli anni 70, non più potente al mondo, come diceva il film. Adesso c'è il calibro 500 magnum, no, Smith & Wesson magnum, ok, la 44 magnum era 10,9 mm di palla, no, di diametro. Questa è quasi 13 mm di palla, tipo 12,7 mm. Poi con una polvere spinta, con una bomba, proprio è una cartuccia alla caccia grossa quasi, messa in un revolver, è roba da matti. Non quasi, è per ammazzare gli orsi, è la caccia grossa, si va solo a caccia con quella lì. Certo che se ti difendi e spari uno lo apri in due, proprio lo tagli in due. Ui, che basta la calibro 9 ti sei bideggia, figurati quelle lì, quelle manca a parlarne. Se con una 44 ti becca a 20 metri si alza, 2 metri a terra. Eia, e infatti certe sono armi assurde, dai, esagerate. Ma giustamente, se io andassi a caccia di elefanti, non mi porto un revolver, mi porto un fucile, la canna è più precisa, puoi mettere il mirino, cosa? Non mi porto un revolver, quelle sono proprio americanate, mi prende già. Certo, ma non le fate in mano, non va bene da manco di mirino. E vedo quello che è scappato al sorso, che si era andato nel bar, di fronte al bar, e si è messo a mangiarsi i cespugli che c'erano, delle piante, si è mangiato. E un suo ciclista che ha detto, la sede è andata a vedere che fare gli amari che va a caso. È tradotto che vuol dire? Lasciatelo andare, vedete che a caso sta andando al mare. Anche i cespugli si mangiano. E a tutte le piante che c'erano davanti al bar, si è mangiato. Ma dice che non era lega, di solito non li mettono con la specie di collare grosso della zampa, con la catena. Dice lì non ce ne aveva, che aveva solo, praticamente, gli hanno fatto un recito con delle corde. E lui è riuscito a pigliare la propulsione, ha trattato il tugato, la terra, certo non ne hanno forza. Era un grido. Fino a fino mi ha trattato la terra, non avevo preso. C'erano le bambini in terra con tutte queste corde, no? Che facevano da reggi, da tipo un reggi. Quello lì ci voleva la guardia forestale con una bella siringa nel fucile. Come era Grumiani? No, è andato al domatore, è andato come un cagnolino, ha detto che è andato. Quando l'ha chiamato il domatore ha girato e ha detto ma che c'è. Beh, quello sì. Io dico, se l'ha visto quell'amico mio che viene a sparare con me, si sarà spaventato, perché il servizio non la può usare la Glock. Usa quella che gli dà in dotazione, che è calibro 9 corte, perché più di quello vicino al bene non vuole punire. Io gli avrei dato il 22 corto, non il long life, il 22 corto vicino urbani, se no ci fanno male. No, che quello istruttore, quella che cazzo sto parlando io, a parte che un omone alto 2 metri, ma se lo vedi sparando, spara quasi come me. Bravissimo. Non bravo, no, bravissimo. Eia. Bene, bene. Stiamo vedendo un elefante passare in strada, deve essere interessante. Da lì magari un elefante Noi sì, le facciamo le gare, infatti quel vigile urbano molte volte gareggia per i vigili urbani, anche la stradale, allora la possono usare la pistola d'ordinanza, se no devono avere il posto d'armi come il mio e si prendono la pistola che vogliono per allenarsi. Il vigile urbano c'è il porto d'armi come quello che ho io. Praticamente per fare il vigile urbano non le serve niente, le serve solo per venire lì a fare, le serve con lo sportivo, diciamo. Quello è d'ordinanza, molte volte glielo proibiscono di sparare con la pistola di ordinanza. E allora se loro si vogliono allenare e usare altri tipi di pistola devono prendersi il posto d'arma per forza, se no manco cartucce possono prendere, non le puoi comprare. E donne ne vengono a tanti. Ma l'altro ce ne sono delle tipe buone, cazzo ce le vedi, ma ce n'è una che ha il mio stesso cognome, è una bonanza che non finisce più. Non possiamo già che venga a farti compagnia. Ma Sabini, quando ci vai? E hanno attaccato, ma vai da quelle case non vi andate di più. Solo ieri, una. Adesso va bene, io non ci vado. Ma dove arriveremo? Ma che vai o c'è un abbonamento? Io sono col padrono in Chivi, perché entro quando mi pare e piace. Come mai? E perché c'è un tesserino speciale e quindi entro quando voglio. C'è l'ingresso libero a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ho capito, ho capito. E tu pensi che io, se dovessi prendermi il porto d'armi, non mi fa già un franco, non mi farebbe entrare, domani mi tirano i occhi. Gianfranco, cazzo, sei amico tuo, poi è bravo Gianfranco, mi no, non ti credo, quello struttore poi è vizio. Io è che non ci vado alle lezioni, non vado, ho fatto qualche gara e poi mi sono truffato, capito? E quanto sei entrato, come ti sei piazzato? Nell'ultima che ho fatto, hanno truccato la gara. Perché ero primo assoluto, nessuno aveva sparato come me, lo sai quanto sono entrato per colpa di Gianfranco? 12esimo. Per colpa di chi? Di Gianfranco, perché ha fatto vincere due poliziotti, primo e secondo. Cazzo, ma non poteva dire che gli interessava ringraziarci quelli della polizia, capito? Possiamo solo fregare. Uno dei seri è un disastro, vediamo che sia stradale. Alla fine della prima marcia ho telefonato a mia moglie, cazzo, è vero, primo assoluto, nessuno aveva sparato come me. Non mi nasce, sbagliato, un uomo. Alleluia. E a me ci sono sempre queste cose. Io mi ricordo una volta Manuela è andata in una gara di canto, praticamente è entrata in finale, era una delle migliori, non perché fosse mia figlia. Poi lo sai che l'hanno fatta, hanno dato, distribuivano i biglietti, c'erano i banchi, non dovevi mangiare la pizza mentre loro cantavano e cose, e in ogni tavolo davano i biglietti giusti a queste persone e tu mettivi la votazione, no, mettivi il nome della persona. Poi l'hanno fatta a questo più, visto che il cameriere ha preso il passato e gli ha dato una maturata di biglietti per far vincere quello che conosceva, capito? Quindi hanno messo più nomi a questo qua e praticamente ha vinto questo. Guarda che dalla volta non ho fatto più Aremi, neanche quella per Cesare ho fatto. Non vi so, più andavo. Qua era un anno che non andavo al campo. Infatti con Gianfranco. Adesso a distanza, compreso. Prima eravamo un bei amici, non bemmi. Infatti non vado alle sue lezioni, non vado da nessuna parte. Sono un cane sciolto lì. Praticamente vado da solo, mi sparo i miei colpi e me ne vado. Ma amici, normalmente si paga l'entrata. Certo che si paga. Io ho l'abbonamento e non pago per quello, capito? Però poca confidenza, dalla volta mi ha scoglionato, non ho fatto più nessuna gara, più o meno, non so come andare. Per esempio Seppino, se voglio me ne vado con i militari, dove voglio vado. cazzo. Addirittura si è offerto di farmi prendere tutti i diplomi, quel vicino urbano, che è istruttore. O vado con lui o vado con col vicino urbano o con cosa, o con l'armiere, quello che gli stavo dicendo a Marco. Capito? Ma chi mi ha rotto le balle? Ciao Luca. L'ho perdonato perché non me ne sbatte nulla, io sono bravo, non lo sai, però a distanza. E tu mi saluta, quando mi saluta lei, da allora lo saluto io. Però non sono andato più neanche quando c'è lui a fare nessun allenamento, perché no, mi ha scassato. E ci sono anche testimoni, c'era il vicino urbano, un altro che c'avevo dietro, e ero un primo classificato. Cazzo, nessuno riesce a due argomenti a me, figurati. L'ultimo bersaglio non l'aveva preso nessuno, perché si sparava da seduti e il bersaglio era dentro una gamma di macchina, figurati. Vai tu, un briacone fragico. Può muovere, eh? Vuoi parlare con Muro? Vai e parla tu con Muro, un briacone. Può muovere. Ciao Lu. Tutto bene, ciao ragazzi, buonasera. Aspetta, ti ho fatto un nuovo lacchino, 2 secondi, avete caffè? È impostato sul canale 5. Sto facendo così. Se no, guarda, 10 minuti di orologio, poi lo spengo, poi non lo accendo più. Giorni e giorni spento, vabbè, non ci sono quasi mai a casa. Però vattene a vedere gambe, sentivo di splatter, sentivo a Natalia un po' di splatter. E sono passato qua, dai. Tutto bene, sì? Tutto bene, ciao Luca. Anche per me. Poi da quando è rinfrescato sto molto meglio. Ah, quello sì, ciao Gianni. Ciao Luca, vabbè. Sempre in girella questo Luca, sempre in girella, eh. No, ah, dai, sono, non dico sempre al mare, ma il colore ce l'ho preso, dai, sono abbastanza bronzato. E che, vabbè, l'impegno anche già, lo sai l'impegno mio qual è? Sono l'impara, magari, magari. Lo so, diciamo che è un dovere, dai, questo l'impegno, è un dovere. Fanno grandi figli, e i figli, quando non bisogna le mamme, dobbiamo pensarci. Ma tutte e due, là, un impegno e dovere, là. Facciamo così. E via, io mio padre l'ho tenuto 14 anni, non ti dico altro. Già, però grazie a Dio tu andavi anche a lavorare, se non c'eri tu c'è la tua moglie, capito? Quello è vero, quello sì. E mia moglie era molto impegnata, perché lo doveva portare all'ospedale a fare visite, tutte le cose le faceva lì. Era, diciamo, una compagna valiente, tutti i fusti, anche a pressione, a fare questo, a fare l'altro, quindi anche lì era impegnata. E poi quando c'hai una persona in più, specialmente se è anziana, sempre lavando roba, insomma, ha lavorato anche lì, poveraccio. Sì, sì, beh, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Vabbè. Tu come se ne frega il Marco, dai, che alla fine non va al mare. Oh, appena andare al mare, Marco? Beh, no, da un bel po' di giorni no, perché c'è sempre la scusa. Oggi c'è caldo, oggi c'è caldo. Invece adesso che c'è fresco c'è maestrale, quindi il mare è mosso e non sto andando. Non sto andando da un bel po'. No, io di la verità, io vado lì alla Marina di Sorso e siamo arrivati mezzogiorno e mezza. Trovare il parcheggio deve avere proprio fortuna. Devo aspettare qualcuno che esca, perché lì sono, diciamo, l'80-90% di soldi. La verità, abbiamo trovato questo signore, stavo uscendo, ci ha lasciato il parcheggio. Stava benissimo, poi ieri alle 6:30 inizia questo, cioè il sole è sparito, poi inizia questo venticello fresco fresco, aiù, qui c'è di tutti se ne siamo andati, ma se fai verso le 7:10 no, con caldo, tu non è possibile, vabbè io ero costretto ad andarmene via perché dovevo salire a fare appunto la mamma, ma comunque tutto sommato sono fatto bene, dai. Ma no, io ieri ero a Water Paradise, ho fatto troppo bene, ho fatto tutti i giochi, anche caricato. Come si paga già? Come sono i prezzi? 15 euro a testa. Tutto giorno? pomeriggio, tirano la sdraio, un bellone, la sdraio, e devi andare presto tu perché la gente c'è la fila a casa, all'entrata apre alle 10, ma devi andare dalle 9 e mezza perché c'è la fila e si prende i primi pussi, capito? Quando si rompe i piedi di fronte alla piscina, i pussi più belli all'ombra, capito? Per aprire quegli ombrelloni ho fatto uno strappo, guarda, ci vuole la forza di Ercole per aprire quegli ombrelloni, sono talmente duri che sono arrivato alla fine, ho fatto uno sforzo sovraumano e ho fatto uno strappo, alla scarpa. Un casino, va pure, la taglio, riprendi, va, capisci come sta andando? Già va. Uiaia. E io che ne avevo due, io ero in galera veramente lì, perché c'avevo la mamma e la babbo, che erano tutti e due infermi, non lo so io. Io già ero in prigione veramente. Uia. E già veramente. E sai cosa era lì? Sì, tu ne avevi due, però è un casino, perché non ti puoi spostare, ma l'insulina alla fine. Sento la gente che è facile, mia mamma sta qua da sola, mio papà sta qua da solo, un po' cioè mi rompe, perché mi ruba poi il tempo, insomma così, io se voglio stare qualche ora in più fuori, non posso, devo rientrare, fa, anche se una cosa da 5 secondi, perché è una cazzata, è un attimo farla. Lo so, anch'io a mamma gliele facevo, mamma ne faceva 3 al giorno, già lo so, però purtroppo le deve fare a quell'orario, compreso, non venne da rifà, ti bronca l'archi. Adesso vediamo se riusciamo a curarsi con qualche assistente, perché la mattina mi devo alzare, se io rientro alle 3 del mattino, alle 7 mi devo alzare, se dormo dalla mia ragazza, e salire qua, mi scusi Natalia, se a casa non me la fotti nuda, mi posso anche alzare a faglia, non mi interessa, ma sono fuori, è pesante per me, perché la macchina consuma un po' di benzina, sali, scendi, poi uno come me che lavora ogni tanto, qualcosa la fa, è un casino. Lo so, io dovevo provare scamottaggi, alla fine una volta mi ero messo con una tipa che sta vicino a te, mi ero messo, dormivo a casa di lì, però a che dura me ne dovevi andare, che dovevi andare a fare la colazione a mamma, l'insulina, e da buci a mammi e andare a travagliare. Cazzoloffia la situazione, cambia così. Dai, io rimango in ascolto, dai, vi saluto, che è tanto troppo buono a cenare, facciamo un po' di fame, riprendi tu e niente, alla prossima, ciao, riprendi già. Sì, ma perché non glielo fai vedere, Luca, le ricette come si fa, che tanto non ci vuole un capo, lo sai cosa c'è, che a volte ci sono gli aghi che si otturano. Non so se è successo a te, ci sono dei draghi che magari si avvitano male, io me ne accorgo subito, sono otturati, non passa l'insulina, quindi bisogna cambiare il drago, fare un altro buco e devono ancora scorciare, quello è così, loro magari non le sanno. Allora io prima di fare l'insulina faccio una verifica, un'unità la sfrutto a vuoto sempre, e forse qualche ago mi è capitato che non passava l'insulina. Sì, anche a me. Purtroppo è così. No, io non le spreco così, perché poi magari non ti bastano, capito, che erano altri. Perché erano per 2 mesi, poi la qualità erano per 2 mesi, poi se magari non ti bastano te le devi comprare, non te le danno altri. No, mamma, non c'è problema per quello, lì. Per quello no, già. Purtroppo devi farlo alla prova, se non funziona, cioè se non c'è insulina, come fai? Tu quanti aghi usi? Uno ogni volta che pungi o sempre il solito? Uno ogni volta che pungo. Se per me io vedo che uno è difettoso, lo butto via e metto un altro. No, io lo uso una volta solo. E l'ago per pungere lo usi per 4 punture, giusto? Sì, l'ago per pungere lo uso anche più volte, quello sì. Ma se te ne servono di quelli ne ho. cambio da capati scizza, adesso per me è un gioco, vado lì, piatto lago, misuro la glicemia e poi ti faccio la puntura nel, come si dice, nella pancia. Bacio sinistro non glielo toccare, che dicevi fa male, boh, non so perché. Eppure la puntura è fatta sempre nel punto giusto, arrivi fa male. E vabbè, e niente, dai. Purtroppo sono solo, c'è qualcuno, però non vuole fare niente. E vabbè, adesso vediamo. Sto uno di questi giorni, la prossima settimana, salgo lì dagli assistenti, vediamo un po' se riusciamo a fargli mettere una persona, tanto sono pagato lo stesso, mamma ne ha bisogno alla fine, non ha bisogno per pulire la casa o fargli i piatti o a mangiare, però a me lo vuole fare queste punture. Tu pensa, quando gli facevo le fargli avevo paura già, perché ogni volta la pungevo usciva a sangue. Perché mi ha trovato il punto giusto, e può succedere questo, che tu non abbia riesco un po' di sangue. Ma io ho proprio i punti precisi, per dire, la mattina la faccio nel braccio, nel braccio la parte superiore del braccio, poi a pranzo la faccio in pancia, la sera ne faccio una nella gamba e una nella coscia per il notturno. Ah, nella gamba, diciamo, frontale, giusto, lì si può fare per mangiare? No, per mangiare, quando la mangi di solito si fa nella pancia. Ah, ecco, e nella coscia c'è davanti? Davanti solitamente la faccio di notte, io c'ho praticamente, a me mi hanno dato una fotocopia di come ti devi fare le punture, no? La pranzo, la cera, eccetera, eccetera, e ce l'ho attaccata, me l'ho attaccata in bagno, di modo che se ho qualche perplessità, inizio con le perplessità, non me le ricordavo, adesso non sono a memoria, ma ce l'ho sempre lì attaccata. E vabbè, comunque quella della notte, ma gliela faccio dietro, dai. Ora la coscia dietro, sotto più su delle natiche. E ma non per essere fatto. Mia madre mi diceva sempre che lei era diventata una prova quella di punti si tanti anni. Se l'ha presa a 49 anni del diabete, no, a 40 anni. L'ultimo figlio che ho avuto io. Praticamente si ha preso il diabete e quando era incinta non è più passato. Per carità, vabbè, là. Vi saluto. Marco, riprendi tu. Scusateci per il ping pong. Ci mancherebbe, Luca. Io invece ho il terrore degli aghi. Cioè, fare inizio io è per me impossibile. Poi chi lo sa, magari per costrizione mi abituo. Vabbè, finché mi fanno un prelievo... Ma fare io le iniezioni? No, no, mamma mia, per carità. Io le faccio tranquillamente, sia quelle di sinistra sia le altre. Perché mamma prima se le faceva tipo antidolorifici, no? Oppure quel ricostituente, il Neoton, no? E dice, dovresti imparare a fare iniezioni, mentre che io quando sono anziana non riesco a farmele, me le devi fare tu, io. Ma se qualche offerta la fate di dice non vedi, guadagnano bene a iniezione. Mamma le faceva anche per le case, mamma le faceva a pagamento. Ehi, poi, mamma mia, io vabbè, prima di te me vuoi più gli aghi, per esempio per fare un prelievo non dovevo guardare, no, tanti anni fa, decenni fa, se mi dovevano fare una iniezione nelle chiappe, avevo una fifa, poi bene o male, così, quando fanno i prelievi guardo, non mi fa effetto. Sento dolore. Chiaro che quando mi fanno l'iniezione dolore non è sempre. Lo so, ma per esempio per puntura sulle chiappe, no, mamma mi diceva sempre si fa sul quadrante superiore destro del gluteo, no, come dico io chiappa, quadrante superiore destro. Però mi fa impressione a me personalmente infilare un ago. Ah, mamma mia, no, no. Mi sembra di mettere un chiodo nella carne. Esagerato. Dopo, io vi saluto che devo portare. Ciao, ciao Gianni, alle prossime. Ciao Luca. Ciao Luca, ciao Gianni, buona passeggiata del cane là, per il cane, e buona cena, buon tutto. Natalia, adesso mi compro una 6.35, la beretta, quella che si apre, si tira in su la canna, ce l'hai presente? Bellina, è meglio la 22 modello 70 come la mia, quella 765 che ho, ma c'è anche il calibro 22. Sì. Per esempio quella berettina lì, solo che è una pistola, cioè la tieni con due dita, proprio un giocattolino, cioè a meno che non becchi il cuore o il cervello, che ne so. Se spari quei uomini cattivi rimbalza. Li ho visti i 635, come si chiamano, piccole come cartucce, dai. Oppure c'è in 22 long rifle, ma ai fini dello scarellamento, della sicurezza dello scarellamento, cos'è meglio? Il 635 che ha il bordino, no? Sai, quel bordino sul fondello, per un'estrazione migliore, o va bene anche il 22 long rifle? Il 22 long rifle si spara a un bambino col 22, è bellissimo. No, ma io dicevo per l'espulsione del bossolo, no? Perché sai, i bossoli sempre delle semiautomatiche hanno quella scanalatura, no? Sul fondo del bossolo, no? Per le strade medie, invece, boh, i 22 long rifle, no, c'è solo quella parte lì che viene percussa, lì, percossa, che percussa, c'è isso. Oh, ho messo la pettorina al cane, così mia moglie la può portare in giro. Non ho risposto per quello, Marco. Aspetta, Marco. Sì, io. Stavo dicendo. Il titolo può essere polemiche tra i piccoli, ma la liquidazione da 25 in 3, ma l'ha perso io, l'ha perso. Perché non ne hai buste? Nella borsetta. Sì, c'è pure complicata che. Sì, io. Adesso te ne dico una. Anni fa c'era stato un caso di cronaca di una persona nota, poco raccomandabile, che si era zuffata malamente con uno, con un buttafuori. Questo buttafuori, vedendo che la cosa si metteva male, ha pigliato una 6.35 e gli ha sparato in fronte, no? Però la pallottola non ha passato la durezza dell'osso della fronte, capito? Quello sì, è stato un po' in coma, sai, l'urto, però non ha bucato il cranio, capito? Non so se te lo ricordi. Non me lo ricordo, no. È certo che se lo spari con quelle pistolette del cazzo, poi va a fare la 765, dicevo io. Cioè, persino non buca nemmeno il cranio di un uomo adulto. Certo, se spari alla tempia è più sottile, e allora sì. Poi la distanza, ma immagino fosse vicino, capito? E qualche anno fa era successo. Una brutta storia. Se li spari con un 9, allora li spappoli il cranio, è certo. No, basta il 765 che c'ho io. Quella lì cazzo fa un danno pauroso, perché l'ho visto io cosa fa. Io me ne stavo ridendo, e cosa vuoi che faccia a questa? Infatti mi avevo comprato la calibro 9 per quello. Cavolo, me l'ha pigliata da l'istruttore, mi ha detto adesso ti faccio vedere cosa fa il 765. Cazzo se lo fa il danno. Qui con quelle pallottole blindate. E a cosa ha sparato? A un bersaglio, però duro. Cazzo, a dove la giurvasi? Il danno. La tavoletta di notte la passa non so quanti metri. Qua. Wow. È tremenda. E voi a quel poligono lì ce l'avete la gelatina balistica per fare le prove di penetrazione? No, abbiamo però i bersagli balistici in coso balistico per vedere se lo dai, no? Perché fa... E tu ti ricordi che negli anni 70, primi 80 andava di moda, lì ha avuto successo del 765 Parabello, quella con la munizione a bottiglietta, quella ha molta più pressione, amici. Era molto più potente del normale 765, poi però non l'hanno più, dopo gli anni 70 non l'hanno più considerato come calibro, usano tutti il 9. E infatti, adesso i vigili urbani per esempio non possono portare il 9 per 21, hanno il 9 corto, la Beretta 84 hanno, che è tipo la 765, però fa danno a Piccinosa, anche se piccola. E le vigilesse sparano bene? Sì, ci sono certe vigilesse, ma quelle che vengono a sparare sparano bene perché sono allenate, là che non ne comprendono un caso. Tu pensa che c'era quello che risponde lì alla radio di via Rockefeller, quello non sapeva sparare. Perché, e poi c'era la pistola che non aveva sparato un colpo quando è venuto. La pistola vergine. Ehi, l'avevo una data nuova. Si è dovuto mettere Gianfranco a insegnargli come sparare, perché no, se no non va via. Cosa hai detto che hanno i vigili urbani? 9 corto o il 765? 9 corto è il massimo che possono avere. Il vigile urbano che conosco io c'ha, certi hanno anche la 765 come la mia. Guarda, per me, a me piaceva molto la Beretta tipo 84, no? C'era la 84 BB tipo bifilare oppure monofilare. Poi l'ho vista dal vivo che con la guardia giurata, una donna. Bella, compatta, bellina come pistola, poi la Beretta, vabbè, a me piaceva sempre la Beretta, nonostante, te l'ho detto, quella rispostava. E poi le Glock hanno rivoluzionato un po' il mercato, ma comunque i gusti sono gusti, a molti non piace perché è squadrata. E ti dirò che a me piacevano anche i revolver. Anche il 38 2 pollici, tipo la Smith & Wesson modello, cos'era? Non mi ricordo il modello. Sì, c'era la Colt Cobra, Smith & Wesson 38, 38 Special. Per esempio c'era la 38 Special da 2 pollici, Giuseppe Pilo, della Tremi. Ho sparato con quella pistola lì. Sì, sì, me l'aveva fatta vedere, credo che ce l'abbia sempre. A me piaceva in particolare il modello Smith & Wesson, 2 pollici, adesso non ricordo la sigla, non è il 29, no, il 29 è la 44 Magno. È carina, bella, poi fanno anche la versione inox, satinata, è ancora più bella. Naturalmente ha solo 5 colpi, quindi i revolver, soprattutto di quel tipo, sai che un 5 colpi sono superati, li considerano superati. Ma caspita, cioè alla fine, ai fini della difesa, caspita, 15 colpi vogliono sparatemi, se ti aggrediscono in casa, cosa spari? 15 colpi, su diavolo. Io credo che con 2-3 colpi tipo scappa o lo ammazzi. Speriamo che non entri mai nessuno, sennò qua non ce la fa a scappare, perché non posso mancarlo anche se lo voglio. Eia, vabbè, qua non vengono a rubare perché cosa rubano? Qua secondo me ci lasciano 100 euro qua, dice poveracci. Non c'è niente a rubare, perciò cosa me ne faccio dell'arma per dire, no? Anche se, sai, al poligono ero andato a chiedere la lista dei documenti da fare, ma poi ho detto, ma che almeno vaggi fa per i soldi sprecati. Quindi ho sparato sempre solo con aria compressa, sia carabina che pistola e soft air, che in casa è meno pericoloso, sai, perché ammetti che c'è un bersaglio in basso, passa il gatto in quell'istante e buchi del cranio col calibro 4,5, no? Quello della carabina, il piombino, mi. Cioè col soft air non gli fai nulla, lo fai scappare e buco. Ah sì, me devo comprare quelle cartucce a pallettoni, anticrimine, quei pallettoni di gomma, perché c'ho solo cattici a palla qua, di piombo, e fanno male quello. Già lo credo, ogni tanto poi, sai, hanno fatto, gli americani stanno sempre facendo prove, pallottole con l'anima d'acciaio, con la punta d'acciaio, no, in modo da non rovinare la canna. Caspita, ma ti bucavano l'impossibile, mi. Tutto perforante, che roba che da noi è impensabile, no? Non lo permettono da noi. E certi film le chiamavano le pallotte della mazza sbirri. I GD7 passavano la macchina, anche se il poliziotto si nascondeva dietro la macchina, la passavano da parte a parte. Perforante proprio. Solo se ti mettevi dietro il motore ti salvavi. È logico, perché non ce la fa a passare. Ma c'è una pistola che passa. La blindatura addirittura. Figurati. C'ha le pallottole tipo Kalashnikov. Cioè la pallottola del 223 Remington. E ce l'ha in queste cartuccette per la pistola. Cazzo, non ha potenza. E tu non hai mai visto quelle pistole monocolpo? Sono pistole monocolpo, no? Che apre il carrello tipo fucile, l'otturatore. Calibro tipo 300 Nitro Express, non mi dico. No, 600 Nitro Express. Ma quello che buca è carro armatemi, Nitro Express. Ma tu devi vederlo in culo. A uno gli è arrivato a faccia, era un tipo grosso, mi la stava tenendo da. Pulisce che il rumore è fortissimo, è terrificante. Devi avere per forza le cuffie, se no ti rompe i timpani. Lo credo. Oh, comunque viene a allenarsi gente con la 886, quella cromata bella, quella lì mi piace un casino, la pistola, chissà quanto costa. Quale pistola hai detto? La 886, Smith & Wesson. Ah, no, devo cercarla, no. Guarda, a me era piaciuta, una volta l'ho vista sul catalogo, sai, tipo armi e tiro, attaccarmi. Una Smith & Wesson modello 645, canale tipo 4 pollici, no, c'è pistola, semiautomatica, canale 4 pollici, acciaio inox, calibro 45 HP. Ah, bello, bello, non hai bisogno, al poligono non hai bisogno delle cannocchiale per vedere dove vanno i colpi. No, beh, quella lì, stavo dicendo io, è 357 anni. Cazzo, non è, c'hanno gli strumenti per misurare la velocità, cazzo. Sì, ah, me lo ricordo, sì. Quell'affare. Cronot, no, come aveva un nome, avevo visto anche il nome. Una volta lo compravo, mi armi e tiro, oppure taccarmi, e poi, fatto, non mi interessava avere le armi a casa, mi, me ne sono sempre fregato. Tanto mi è una rogna perché mille documenti, controlli, cose, rinnovi, domanda mi lo va di fa. Sì, come lo faccio fare, tiro dinamico, lo può fare a prendersi il portogallo. Capito? Se no, se non fa nessuno sport non gli conviene. Infatti, sì, intanto non è per difesa, non sono né personalità, non porto valori, quindi cosa, anzi me li devono dare i miei valori se mi vedo. Poi non ne danno più a nessuno ormai quasi. È un macello. E c'era un sacco belle, a voglia. Poi adesso vanno di moda queste nanopistole, queste piccole, com'è che si chiamano? Sì, tipo lo chiamano versione nano, semiautomatiche piccole, tipo calibro 9, le subcompact, ecco il nome, c'erano le compact, adesso hanno fatto le subcompact. E io invece ho la full size. perché quello lì non l'ha preso la 19, ragazza, perché era troppo piccola. È appena più corta, io c'ho il modello militare, mi capito la full size. No, anche perché queste compact, queste piccole, troppo compatte, alla fine servono solo per difesa personale, se te la porti addosso, mi, se non vuoi roba pesante. Cioè al poligono c'hanno canette da 2 pollici, mi, queste piccole semiautomatiche, ci fai poco. Io l'ho vista la Nano, che ce l'aveva uno che c'ha una 44 Magnum, c'ha la Sig Sauer, cazzo, bellissima, quella lì. Ne ha un casino, un collega di Gianfranco, quello è patito, è brutto. Patito o partito? Patito! Crevo partito di cervello. Guarda, ieri c'era un film e purtroppo ho visto solo la fine. Te lo ricorderai, un giorno di ordinaria follia con Michael Douglas. Lui era un impiegato che lavorava per la difesa, era stato licenziato, no? Dopo un po' di tempo esce di testa e molla la macchina a mezza strada e torna piano piano verso la casa della ex moglie. E lì ne succedono di tutti i colori, capito? È un film carino, non so se lo conosci. L'ho visto tempo fa, cazzo, io c'ho un ventilatore piccolo, ma fatto con il trombone che avevo nel computer che mandava l'aria al processore, no? E ci ho schiaffato la ventola dietro, c'ho roba di ventilatore qua, personale. Claudio non è entrato oggi, non è entrato niente, no? No, negativo. Ma non so se sta lavorando oppure è in ferie, no? No, sta lavorando. Era a riposo tutta la settimana, ma oggi sta lavorando sicuramente. Bene, se stasera non c'è nulla in TV di bello, sono scaricato dei bei film, ma vediamo cosa scegliere. L'ultimo scaricato è Terminator 3, che io avevo in videocassetta, ma sai, queste videocassette tendono a rovinarsi, più le guardi più si sciabideggiano, invece in DVX è bello nitido, bello chiaro. E infatti, io non so dove scaricarli, se non me li avrei scaricati un po' di questi cavolo di film. Ne avevo. C'avevo anche America Sniper, quello che aveva fatto cosa, come si chiama? Ma non me la metto come si chiama, vabbè. Ehi, hai visto quando ha sparato anche al bambino che stava buttando la bomba? No, al bambino non l'ha sparato perché l'ha mollato. No, aspetta, no, non quello. Sì, no, uno l'aveva sparato, l'ha sparato alla madre e poi al bambino. Ti ricordi? Allora mi pare che alla donna le cade la bomba, la raccoglie il bambino e va verso i soldati. No, che non abbia sbagliato io, magari. Invece l'altro bambino, no, quello no, lo stava raccogliendo, poi l'ha lasciata e è scappato. Quello sì, me lo ricordo. American Sniper, già quelli del Vendicatore mi avevo scaricato, solo che ho perso tutto. Bah, se non l'avrei messo a scaricare, tanto c'ho la fibra, cazzo, molto ci mette a scaricarmelo. Eia, ah, la fibra è buono, anche a noi l'hanno, solo che non ce ne facciamo niente della fibra, dai, glielo ho detto, basta quello che c'è. Tanto lo lascio acceso lì e scarica. Tanto lì non è questione di. Lì dipende da quanti utenti ci sono che lo danno, che lo condividono, capito? Non è questione di fibra. Col torrent lo scarichi? Con emule. Ah, con emule. Invece tanti anni fa usavo WinMX, io chiamavo WinMix, invece era WinMX, quello con la facciata nera, bello anche quello. E poi sono passato a emule. Tu tutti gli altri sono cose minori. Ah, Torrent è buono, Torrent è buono per i film appena usciti. Però spesso sono film girati nelle sale, vedi la testa delle persone, senti l'audio rimbombante, così è uno schifo. Adesso non mi ricordo più i titoli, cazzo, se no me li avrei scaricati, me l'avrei scaricato il torrent qua. Se indovini cos'ho in mano te do un pezzo. Ehi, sono sassarese, ma non sono certo indovino. Bello prevedere il futuro, eh? Giochi i numeri del Superenalotto, te mangi, vinci 60 milioni di euro. Mamma mia, io dico che mi verrebbe un infarto a me, lo sai. Vero? Cioè alla fine non sai manco come spenderli. Cioè cosa faccio? Dove vado? Non è che prima devi realizzare se sopravvivi alla notizia della vincita. Signor, allora vediamo un po' cosa vediamo qua in oggi. E mi sta sempre rompendo, si sgancia la connessione, non capisco perché. Sempre che non c'è un problema di fibra. Ma non credo, non credo proprio. Adesso c'è, risoluzione dei problemi me l'ha messo a posto. Però ogni tanto sgancia, questa cosa, ma gettevi prefito non disponibile, risolto. Comunque è bello che già da ieri si respirava, non ne potevo più dal caldo. Alla fine mi sto tanto mio al mare, non stiamo andando, quindi mi sto scocciando dall'estate. Meglio l'autunno, né troppo caldo né troppo freddo. Ehi, faccio. Poi purtroppo hanno rovinato le quinto pettine dove andavamo noi un po' di tempo fa. Hanno fatto questa passerella enorme, gigantesca. Hanno fatto tutte queste strane, questi recinti di col bambù, un recinto per le pecore, non ho capito cosa volevano fare. Natalai, no, così quasi chiudo, dai. Vado a vedermi un po' di paperissima, come si chiama, striscia la notizia, ok? E sentiamo domani, salvo imprevisti, tocchiamo ferro, aspetta, ecco. Ok, vabbè, ci sentiamo domani. Ciao, alla prossima. Ciao, buona serata, saluta in famiglia, Natalia, dai. E altrettanto, non è ancora fermata, ma già glielo dico, ciao.